sono quei bravi ragazzi del Brooklyn e del Queens. Non sono gli Sleepers, nati e cresciuti a Hell's Kitchen nell'East Side di Manhattan. Non sono i Sopranos, mafiosi italiani del New Jersey. Loro sono di Milano. Il sud e il centro dello stivale che marcio dentro.